Storiacce di Raffaella Calandra. Che cosa c'è nei nostri piatti? Giriamo il mondo e troviamo prodotti che vengono spacciati per italiani ma mai sentiti da noi. Troviamo il sugo Alfredo che fa impazzire i tedeschi ma che noi non sappiamo neanche che cosa sia. Il parmesan non è il parmigiano reggiano eppure all'estero si vende come tale. C'è dunque il fronte della truffa commerciale, c'è il fronte dei prodotti, e questo riguarda noi in Italia, oli fatti con una mescolanza di oli diversi, pesce che a volte viene trattato per sembrare fresco anche se non lo è, vino che a volte può risultare edulcorato. C'è dunque un fronte della truffa commerciale, ma c'è anche il fronte della sicurezza alimentare che interessa tutti quanti noi molto da vicino. Nell'uno e nell'altro caso la nostra domanda è: cosa c'è nei nostri piatti? E con questa domanda parte questa puntata di Storiacce da Cibus a Parma. Tutti forse ricorderete, c'era stato lo scandalo della mozzarella blu oppure ancora dell'olio spacciato per extravergine mentre invece era composto con olio di semi, oppure ancora olio colorato e latte e formaggi non doverosamente conservati e prodotti. Il ministro della salute proprio qui da Cibus ha annunciato controlli dei NAS nelle mense scolastiche, ma la sicurezza dei cibi riguarda tutti anche in tempi in cui le intolleranze alimentari, i problemi con il cibo aumentano, quindi l'argomento di Storiacce di questa settimana incrocia le indagini, incrocia la cronaca, ma incrocia anche il fronte del danno che ai tanti produttori di marchi Made in Italy provocano prodotti che evocano appunto il Made in Italy ma che italiani non sono. Ma sentite cosa ha trovato in giro per il mondo questo cacciatore di falsi, Rolando Manfredini, capo dell'area sicurezza alimentare di Coldiretti. Sono stato negli Stati Uniti, in Canada, in tutta Europa ed evidentemente abbiamo trovato veramente tantissimo sull'imitazione dei prodotti italiani. Ci faccia qualche esempio. Ma guardi, per esempio negli Stati Uniti il 98% grosso modo dei formaggi è di imitazione italiana e là impasta per esempio il parmesan, che ovviamente è un formaggio ritenuto simile ovviamente al parmigiano reggiano o al grana padano, e questo la dice lunga, ma ci sono moltissimi pecorini con le edizioni più variegate, da pecorino a pecorino romano a romano cheese eccetera eccetera, quindi comunque prodotti che in un qualche modo, è vero, richiamano l'italianità. Evocare il marchio italiano significa anche un po' ingannare il pubblico e pensare di spacciare un prodotto che italiano non è. Qual è la cosa più bizzarra che lei ha trovato? Ho trovato per esempio un pecorino con scritto in italiano pecorino e sopra c'era l'effigie di una mucca. Questo fa un po' ridere, ma ho trovato anche delle cose piuttosto gravi. Negli Stati Uniti è molto diffuso il San Marzano, che ovviamente evoca il pomodoro. Una cosa grave che abbiamo trovato è una fontina commercializzata dalla Danimarca. La fontina ovviamente è un prodotto DOP, protetto. Ogni Stato membro deve perseguire sul proprio territorio la contraffazione di prodotti DOP. In questo caso viene commercializzato fuori dall'Europa, ma con Made in Denmark. Ma lei ha trovato anche dei prodotti che utilizzavano ingredienti nocivi per la salute? Quando viene completamente omessa la rintracciabilità di un prodotto, è lecito sospettare qualsiasi cosa. Volevo chiedere alla presidente della Coldiretti dell'Emilia Romagna, Marco Allaria, uno sguardo d'insieme. Quali sono le cifre della contraffazione alimentare in questo momento in Italia? I dati sono ormai preoccupanti e hanno superato di gran lunga i 60 miliardi di euro stimato tra il falso e l'Italian Sounding. Abbiamo 2 casi su 3 ormai di prodotti che troviamo all'estero, anche in Europa, che richiamano l'italianità attraverso nomi di località, Napoli, Venezia, Firenze, abbinati alla denominazione salame, formaggio. e soprattutto il packaging che viene sistematicamente presentato col tricolore, con nomi che richiamano l'italianità. Quali sono i paesi dove è più diffuso il falso Made in Italy? Ah, sicuramente sono gli Stati Uniti, ma soprattutto anche in paesi del nord Europa è sistematica il richiamo all'italianità. Avete stimato il danno? Sicuramente se ci fosse veramente il vero Made in Italy nel mondo, dovremmo esportare 3 volte quello che oggi noi esportiamo. Ed è un furto non solo di identità, un furto di valore, un furto di mano d'opera, di posti di lavoro e di reddito per il nostro PIL nazionale. Un furto che le aziende subiscono. Di sicuro in Emilia un prodotto tipico è l'aceto balsamico. La lavorazione complessa, lunga, insomma, che richiede tutta una trafila che lo rende anche così pregiato. Allo stesso tempo però anche in questo caso non mancano le contraffazioni. Giacomo Ponti, ne avete trovate varie, in alcuni casi avete dovuto anche avviare percorsi legali. Esattamente, l'aceto balsamico di Modena, ricordo che è uno dei prodotti IGP più esportati dall'Italia verso il mondo, tanto che solo il 10% della produzione viene consumata in Italia, il 90% esportato, e come tutti i prodotti di successo ha le sue imitazioni, sono prodotti evocativi che utilizzano parte del nome, in particolare l'aggettivo balsamico, per evocare il prodotto IGP italiano. Che cosa che avete trovato in Germania? Abbiamo trovato in Germania, ma non solo in Germania, tanti condimenti balsamici. Traggono in inganno il consumatore davanti allo scaffale. Chiaramente sono dei prodotti che vengono venduti tendenzialmente a un prezzo inferiore alla media del mercato. Il consorzio ha mosso delle lettere di diffida nei confronti di tutti questi produttori e alcuni hanno mosso causa contro il consorzio. Il consorzio ha vinto la causa di primo grado con una sentenza al tribunale di Mannheim contro appunto un produttore. Quindi una sentenza di un tribunale tedesco ha stabilito che quei prodotti che erano negli scaffali dei supermercati tedeschi, quel prodotto andava ad evocare l'aceto balsamico italiano di Modena, ma in realtà nulla aveva a che fare con questo. Esatto. Quindi si tratta anche di una sentenza un po' apripista, probabilmente anche per tutta una serie di problematiche che riguarda anche molti altri prodotti. Anche perché il tema della contraffazione all'estero è stato storicamente anche un po' legato anche al tema delle vie dell'emigrazione. Figli, seconde, terze generazioni di emigranti italiani, andiamo un po' a vedere anche che cosa succede con il parmigiano reggiano. E allora io chiedo innanzitutto a Giuseppe Ambrosi, ci faccia un po' il quadro della contraffazione del parmigiano reggiano. Nei formaggi italiani stimiamo di avere una contraffazione che è di 10 volte quello che è il volume dei formaggi che riusciamo ad esportare. A Gianluca Bonatti, in qualità appunto di produttore diretto di parmigiano reggiano, concretamente che tipo di danni avete registrato rispetto alla contraffazione in giro per il mondo? Ci hanno addirittura portato a casa dei pezzi di parmigiano dalla Turchia, che per esempio negli Stati Uniti 9 forme su 10 sono finte. Quindi, ma che vuol dire? Sono prodotti che si chiamano parmesan, comunque, sono prodotti che vengono fatti in altri paesi e vengono alla fine spacciati per parmesan. Il famoso Italian sounding, quando si tratta di latte c'è anche un procedimento di produzione, di conservazione che forse ha bisogno di una tutela maggiore. E quindi ecco, io la mia domanda era, che così poi introduciamo progressivamente anche il secondo tema di questa puntata di Storiacce sulla sicurezza, se in qualche modo una contraffazione aumenta anche il rischio per la sicurezza alimentare, per la produzione quantomeno. Può essere assolutamente sì. Immaginiamoci il parmesan che viene prodotto in Argentina, che sanità possono avere in Argentina sui controlli sugli animali, sui controlli in caseificio, sul tipo di strutture. In Repubblica Ceca hanno cominciato ieri pomeriggio a produrre. Mi sembra che lei abbia un'opinione diversa. No, non è che abbia un'opinione diversa, dico semplicemente che c'è una grande differenza tra Italian sounding e contraffazione. Allora, quando parliamo di Italian sounding parliamo di prodotti, comunque formaggi che magari scimmiottano i nomi nostri e per questi devono essere difesi i nostri marchi e la qualità dei nostri prodotti combattuto. La tracciabilità di tutti quanti i vari ingredienti, che soprattutto per prodotti freschi è ancora più importante. Questo chiama in causa il tema anche della sicurezza alimentare, che adesso andremo a toccare con il comandante del NAS. Ma nel frattempo io volevo anche chiedere al presidente di Federalimentare Scordamaglia, è vero che in qualche modo anche un po' gli italiani facilitano o quantomeno aprono le porte un po' alla contraffazione o all'Italian Sounding? Italian Sounding è assolutamente così sui paesi terzi. Moltissimi paesi, moltissimi mercati, gli Stati Uniti sono il classico esempio dove noi non riusciamo ad arrivare con i nostri prodotti per limiti distributivi, per incapacità di coprire, come diciamo sempre, l'ultimo miglio. È chiaro che ci sono produzioni locali che tendono a riprodurre i nostri prodotti attribuendogli un'evocazione di italianità che in realtà non c'è. Non può essere accettata da nessuna parte, non può essere tollerata, e credo che proprio nella discussione con gli Stati Uniti sul TTIP, più che di mezzi legali, più che dovremmo proprio discutere di questo, di quanto sia fuorviante, misleading, ingannevole per lo stesso consumatore americano non tanto avere il Parmesan del Wisconsin, che probabilmente se registrato 50 anni prima non riusciremo mai a cancellare, ma fargli credere che il Parmesan del Wisconsin sia fatto in Italia, abbia un'origine italiana e abbia le caratteristiche del prodotto italiano. Questo è profondamente sbagliato e questo dobbiamo contrastare. Prodotti dunque che evocano quelli italiani ma che italiani non sono, anche questo succede all'estero, ma invece in Italia che cosa succede? C'è anche un tema sicurezza sulle nostre tavole? Ne parliamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Formaggio pecorino che invece sull'etichetta aveva il disegno di una mucca. Forse fanno anche sorridere casi come questo, casi di falsi made in Italy diffusi all'estero, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce. Ma tornando qui da noi, noi siamo sempre completamente sicuri di quello che compriamo e mangiamo? A mettere insieme tutti i prodotti sequestrati nelle varie indagini dei carabinieri dei NAS, in realtà si imbandisce un'autentica tavola di orrori. Pesce sbiancato e decongelato, olio annacquato e ora pure un allarme per il latte contaminato, denuncia a Storiacce il comandante della NAS di Parma, Angelo Balletta, in questa puntata da Cibus. In realtà i controlli sono anche una garanzia per tutti i produttori seri, oltre che ovviamente per tutti noi. Perché sentite un po' cosa c'è sulla tavola dei NAS. E su quella stessa tavola potremmo trovarci per esempio del pesce che viene acquistato da stati esteri come pesce congelato, viene poi trasportato in Italia e all'interno di un'azienda viene decongelato e trattato con acqua ossigenata per farlo sembrare, diciamo così, pesce fresco ed essere poi immesso sul mercato come pesce fresco anziché pesce congelato. E poi appunto è messo sul mercato nella filiera della grande distribuzione? In tutta la filiera comunque della distribuzione, che sia grande distribuzione o meno, in qualche circostanza abbiamo riscontrato che questo pesce veniva venduto presso la grande distribuzione, ma a insaputa, nel senso che l'attività di raggiro da parte di questa organizzazione era tale per cui non era stata garantita, diciamo così, verso la grande distribuzione quella trasparenza necessaria per poter diciamo così, attribuire la giusta provenienza al pesce. Soprattutto in un momento in cui c'è anche una grande diffusione del consumo anche del pesce crudo, il pesce se non è trattato bene rischia di essere veramente nocivo per la salute. Era un'organizzazione criminale a tutti gli effetti, con compiti ben delineati all'interno di questa organizzazione, e quindi è stata ricostruita tutta la filiera, sono state poste sotto sequestro ingenti quantitativi di pesce, ovviamente anche la stessa struttura che veniva utilizzata per, diciamo così, la trasformazione del pesce da congelato a pesce fresco. L'approvvigionamento avveniva su canali stranieri, principalmente Spagna, ma ovviamente l'azienda finale di lavorazione era situata sul territorio nazionale e faceva capo a italiani. Ecco comandante, appunto, pesce che era trattato in questo modo, ma tutti ricordiamo ad esempio anche le vicende della mozzarella blu. Cos'altro ancora in questa ipotetica tavola degli orrori potremmo trovare? Per esempio abbiamo sempre un'attività fatta in centro Italia, è stata individuato un'azienda che produceva vino contraffatto, vino di marca contraffatto, azienda che aveva addirittura anche una litotipografia per stampare le etichette contraffatto. Quindi la contraffazione investiva non solo la parte commerciale vera e propria, quindi con l'etichettatura contraffatta, ma anche ovviamente il prodotto in sé, il prodotto con, attraverso l'utilizzo di ingenti quantitativi di zuccheri per aumentarne anche la gradazione. Insomma. Le cose più pericolose che avete trovato? Ma ultimamente le attività che si stanno concentrando sulla presenza di latte che è contaminato da aflatossina per la produzione di determinati formaggi, e quindi questo è un settore che stiamo attenzionando particolarmente, perché comunque c'è questa problematica, insomma, che non è nuova e che si ripropone ciclicamente secondo uno schema preciso, nel senso che tutto parte da un batterio che si sviluppa nel mais e si sviluppa spontaneamente quando ci sono condizioni di siccità particolarmente gravi, come quella per esempio che ha interessato il nostro paese la scorsa estate. E quindi il mais, che poi finisce nel circolo dell'alimentazione dei bovini da latte, automaticamente passa nella produzione del latte. Prima di chiedere una risposta su questo proprio, visto che abbiamo qui in studio con noi due diretti, diciamo, interessati al latte e produzione di formaggi, le volevo chiedere, chiaramente adesso sono partiti questi controlli anche sulle mense. Parliamo di tutte quelle attività che hanno la finalità di garantire l'assenza di rischi e pericoli per la salute e per il consumatore di qualsiasi prodotto alimentare, sia agricolo che industriale, e che riguarda ovviamente tutta la filiera, quindi dalla materia prima utilizzata per un determinato alimento fino alla parte finale, che è la somministrazione o comunque l'utilizzo da parte dell'utente finale. E sulle mense, diciamo, è la stessa cosa, ovviamente la stessa cosa la possiamo, diciamo così, applicare alle mense. Per quella che è la nostra esperienza, non abbiamo, diciamo così, riscontrato particolari criticità nelle attività di controllo, soprattutto sulle mense. Ben vengano le segnalazioni delle mamme, sta a noi poi il compito, il nostro dovere, andare a verificare che le pietanze che vengono servite nella fattispecie, insomma, nelle mense scolastiche, siano adeguate agli standard previsti. E non vi è mai capitato, diciamo, qualche sequestro che avesse a che fare con alimentazione scolastica, con mense, no, scolastiche? Per quel che è la mia esperienza, no. Torno da lei tra un attimo perché voglio chiederle dell'olio, però invece volevo una risposta flash, però da tutti e due, se volete, i nostri diciamo rappresentanti del mondo del latte e del formaggio qui in studio, rispetto a questo tema, questa preoccupazione che il comandante della NAS sollevava. Ambrosi. E sul latte siamo tranquilli, grazie ai controlli che vengono effettuati in una maniera molto seria e precisa in Italia, assicurano il consumatore che non ci sono pericoli, in quanto se ci sono delle contaminazioni, quel latte viene eliminato, non messo in commercio, in modo da tutelare il consumatore. Sono cose che possono accadere, fa parte della routine dei controlli che si fanno su tutti gli alimenti. E ci riporta a quello che dicevamo prima, che però, perché se in qualche modo sull'italiano, quindi sul prodotto italiano, siamo anche più garantiti rispetto alla trafila dei controlli, questo tipo di garanzia non ce l'abbiamo per i prodotti che vengono fatti all'estero. La stessa cosa volevo chiedere anche a Gianluca Bonatti. Il discorso delle aflatossine è giustissimo, quello che ha detto il comandante, quello che ha detto il dottor Ambrosi, cioè noi in Italia abbiamo una garanzia assoluta di analisi continue ovunque di tutti i prodotti che vengono mangiati dagli animali. Io vorrei tornare dal comandante a chiedergli una cosa. Ciclicamente registriamo, diciamo, operazioni dei NAS in cui il tema è olio extravergine italiano, e in realtà poi si va a scoprire che in alcuni casi è stato un mix di oli diversi. Lei ha citato il vino prima. Un'attività recente ha riguardato proprio un sodalizio che aveva come attività la contraffazione dell'olio, quindi utilizzava clorofilla e beta carotene per produrre dell'olio che poi vendeva, metteva in commercio come olio extravergine di oliva. Avete anche trovato casi in cui i prodotti italiani erano mescolati a prodotti stranieri? In alcune circostanze sì. Ad esempio? C'era praticamente dell'olio che arrivava da extraterritorio, sempre in ambito UE, però è stato mischiato con prodotti italiani. E Questo ci riporta alla domanda di apertura di questa puntata particolare di Storiacce da Cibus a Parma. Cosa c'è nei nostri piatti? Una domanda che anche il Ministro della Salute ha appena fatto a proposito delle mense, facendo avviare dei controlli nelle mense scolastiche. Quello della sicurezza alimentare in realtà era un tema noto pure per gli antichi, come ci racconta a questo punto Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento, autore di saggi sulla mitologia classica. Linea alle mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Non bevete i vini della Gallia. Lo diceva Plinio il Vecchio, il grande scienziato che morì mentre osservava da vicino l'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei nel 79 d.C. Plinio avvertiva i romani che gran parte dei vini gallici erano adulterati da produttori disonesti, che li affumicavano oppure li trattavano con l'aloe per alterarne il sapore e il colore. Lo sapeva bene anche il poeta Marziale, che in un suo epigramma se la prende con un tale Munna, uno che dal porto di Marsiglia spediva a Roma i vini affumicati della Gallia. Anzi, non vini, dice il poeta, ma terribili veleni. E non è un caso che Munna non si faccia più vedere a Roma da qualche tempo. Forse, dice Marziale, teme di doversi bere il suo vino. Insomma, se oggi celebriamo i vini francesi, al tempo di Roma i vinicoltori d'Oltralpe non godevano di una buona fama. Ma il problema era generale e riguardava anche i vini italiani, come lo stesso Marziale dice in un altro epigramma. Qui il sofisticatore si chiama Tucca, uno che tagliava il Falerno, uno dei vini più pregiati e celebrati dell'antichità, con vinacci qualsiasi. Cosa ti ha fatto di male un vino così buono, protesta Marziale? Il vero delitto non è ammazzare noi, ma uccidere il Falerno, avvelenare crudelmente il vino campano. Forse i tuoi invitati hanno meritato la morte, conclude il poeta, ma un'anfora così preziosa non meritava questa triste sorte. E voi vi sentite sempre sereni rispetto a quello che comprate e mangiate? Quanti controllano l'etichetta anche con la provenienza dai vari paesi? Se vi va, commentate con noi questa puntata di Storiacce sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Se invece avete vostre storiacce da segnalarci, scriveteci a storiacce@radio24.it. Ciao a tutti, a presto!